Luna, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Adesso facciamo un brano che conoscete sicuramente tutti. Yisrael. Nei suoi occhi c'è la vita, c'è l'amore. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. Sta seguendo una luce che cammina. Lentamente tanta gente si avvicina. Credo sia una delle canzoni più conosciute nell'ambito della musica italiana. Sono i Delirium con Yisrael, un pezzo che è stato veramente ascoltato tantissimo. Buonasera dalle frequenze di Blu Radio Sera e da Blu Radio Veneto, ovviamente, con Agostino Spolore in tenendo in compagnia Energia, e poi anche c'è con me Maurizio, e questa sera abbiamo un esponente dei Delirium. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, è un pezzo storico, un pezzo che ha trascinato un'icona. Buonasera Ettore! Ciao a tutti! Ciao Ettore! Come stai? Sto bene. Ettore Vigal, tastierista principe, tastierista, uno dei membri fondatori della band, bisogna dirlo questo. Sì, ovvio. Ancora dei Sagittari, Ettore. Anche perché sono più vecchi. Ecco, esattamente. Questo è un nuovo inizio per Petro. Questo è un pezzo dal vivo, da Yes I, un pezzo famosissimo. Un nuovo inizio perché dal vivo è cominciata la ricostituzione della band sotto l'impulso di Pino Di Salvo, dobbiamo dirlo questo. Pino Di Santo. Sì, sì. Di Santo, pardon, il batterista praticamente. Il batterista, esatto. È stato, ma come mai questo impulso, questa voglia di ritrovarsi, Ettore? Ma guarda, in effetti è già un po' che la cosa era nell'aria. Però solo noi due ci sembrava una cosa un po' sì, cioè minimale. Allora abbiamo coinvolto anche il sassofonista Martin Greis, che era il nostro... E il vostro sassofonista dopo subito Dolceacqua, allora mi pare. È scattato la molla, cioè praticamente abbiamo detto ma sì, ricominciamo, anche l'abbiamo fatto per divertirci così inizialmente. E poi invece abbiamo visto che c'era un certo interesse intorno alla cosa, allora abbiamo continuato, cioè proprio l'abbiamo preso sul serio, insomma. Quindi avete ampliato il discorso, dobbiamo sottolineare una cosa, forse molti ascoltatori lo sanno, ma in Giappone avete un pubblico notevolissimo per il progressive italiano, in Giappone è seguitissimo. Sì, sì, ma non solo in Giappone, anche in Messico. Anche in Messico, esatto. Sì. Quindi il progressive non è morto, è solo stato un momento messo da parte, ma un momentino solamente, poi è ritornato su come doveva ritornare, chiaramente. È un momentino abbastanza lungo, diciamo troppo lungo. Ecco. Comunque adesso si sta muovendo qualcosa, mi sembra... anche in modo piuttosto imponente, sempre purtroppo, mi dispiace dire questa parola perché è una parola brutta, però di nicchia, è una cosa, non è chiaramente molto, molto visibile a tutti, ecco, tutto lì. Ma non è di, non so se di nicchia, ma non propriamente così, secondo me, Ettore, perché il PFM ha rifatto la buona novella, il banco sembra ricostituirsi, la raccomandata ricevuta di ritorno ha fatto un nuovo disco e voi avete fatto un nuovo disco, quindi c'è un grande ritorno, una grande voglia di risentire queste band storiche italiane. No, ma io intendo dire nel senso che la visibilità praticamente purtroppo è minima. Cioè, ah, ho capito, cioè, sì. Dobbiamo ringraziare Razzo come la vostra e come... poche altre, diciamo, se no le grosse emittenti praticamente non ci considerano neanche. Ho capito. È anche vero comunque, Ettore, scusa se mi interrompo, che dipende anche da voi musicisti se ci date la disponibilità di essere presente, diciamo. Sì, sì, no, quello sì, va bene, però se noi ci chiedono la disponibilità la diamo, basta che... Va bene, adesso sarà un discorso, per non vuole essere sì, poi. Sì, andiamo no. Avanti con il discorso musicale. Certo, sì, figurati. Questo tempo passato dopo la fine del primo sodalizio, Ettore, dal terzo album, sì. Mi pare del 74, che era un album meraviglioso, era il Delirium 3, cioè un album, veramente un proprio album progressive. Viaggio nella cipria del tempo. Esattamente, chiamato anche Delirium 3, praticamente. Esatto. Questo lungo periodo di tempo... Come mai questo lungo periodo di tempo, Ettore? Insomma, nel 75 poi noi ci siamo sciolti definitivamente come gruppo Delirium. Ognuno poi ha avuto la sua strada, abbiamo delle esperienze diverse, eccetera. Poi anche perché in effetti dall'80 in poi è cominciato poi a scemare, diciamo, l'interesse per questo genere di musica, eccetera. È uscito fuori la discoteca, dopo la dance music, eccetera, insomma... altri generi che hanno un po' messo in sordina questo genere, e questo ci ha praticamente un po' demoralizzati. Allora abbiamo fatto le nostre strade in altri campi, chiaramente sempre musicali, però io per esempio ho avuto l'esperienza con i Kim & Cadillac, ho fatto rock and roll, certo, anni, hai fatto rock and roll, Sanremo, eccetera, e altri, insomma, Martin è andato in Inghilterra, è stato 8 anni là di nuovo, ci ho fatto altre esperienze, boh. E poi c'è stata l'occasione adesso di riunirci, se no, perché? Proprio perché sta rinascendo questa voglia di anni 70, diciamo così. Ricordo delle ristampe giapponesi a prezzi salatissimi del progressive italiano, compreso sì, i vostri. Ci fanno addirittura i cofanetti con esatto. La discografia. Sì. Costavano un sacco di soldi. I giapponesi erano stati bravi, avevano recepito il discorso e poi avevano stampato tutti i dischi italiani in Giappone con dei prezzi enormi, tutti bene confezionati, tutto eccetera, però costosissimi erano. Sì, ma costosissimi, ma perché hanno avuto un riscontro non notevole? Perché i giovani si sono proprio appassionati a questo tipo di musica, perché sennò cioè, non sarebbe stato il... possibile di una cosa del genere, no? E probabilmente perché è una musica che per loro era una novità, lo è tuttora, cioè, in effetti, tra l'altro ci sono anche un sacco di gruppi progressivi nuovi, giapponesi, sì, che non so se ne conosci, ma sono bravissimi, fanno delle cose stupende. Decisamente. Sì, no, citami alcuni nomi se te li ricordi. In questo momento non. Antivirus. Beh, non importa, sono dei gruppi, sì, giovani che fanno, che ritornano a questo genere bellissimo, secondo me. Allora, avete avuto l'idea prima dell'album dal vivo e poi l'idea di un nuovo album vero e proprio, non dal vivo. Sì, questa è stata un'idea che ci ha praticamente, è stata proprio la nostra etichetta che ci ha spinti a farlo. Che è la Black Window Records. Black Window, sì, esatto, che loro sono proprio dentro al progressive, proprio fino al collo. E sono conosciuti tra l'altro in tutto il mondo e distribuiscono molto bene e sono produttore anche di gruppi internazionali, cioè, quindi, e così ci hanno proposto questa idea di fare un album nuovo e io l'ho presa con molto entusiasmo, certo, anche Martin naturalmente, anche perché avevamo già da tempo un po' di materiale nei cassetti, famosi cassettini e l'abbiamo tirati fuori e loro si sono innamorati di questi pezzi. Non so se l'hai ascoltato. Sì, il disco l'ho sentito tutto quanto, chiaramente. A me è piaciuto particolarmente. Sì. Io ho sempre amato il progressive, c'è poco da fare. I tuoi dischi li ho tutti quanti, i dischi del Delirium, li avevo conservati, li avevo risentiti. Adesso, visto l'occasione, li ho ripresi fuori, li ho messi fuori, li ho risentiti un'altra volta. Però, chiaramente, il progressive è un genere che non muore mai, secondo me. Ha sempre come i gatti, ha sette vite, cosa dici? Ma anche perché, giusto, non si può... Si definisce progressive, d'accordo. Una volta si chiamava pop rock, pop rock jazz, esatto, eccetera. Però ha un significato particolare perché vuol dire tutto e non vuol dire niente. È conglobato nel genere progressive. Ci sono conglobati tutti i generi, cioè se vai a sentire c'è del jazz, sì, c'è del classico, c'è del beat, c'è del pop normale, cioè... Quindi è un genere che in teoria dovrebbe piacere a tutti. Sì, a 360 gradi, allora. 360 gradi, esatto. Ricordiamo la formazione di questo album, Ettore, che è molto importante. Oltre a te, alle tastiere, tu suoni l'organo, il piano, il mellotron, il Moog, il Fender Rhodes. Sì, su tutte le tastiere. Esattamente. Poi Pino Di Santo, poi la batteria. Pino Di Santo, che è il batterista, che è uno storico anche lui. Certo. Poi c'è Martin Grimes, che suona flauto, sax, tutti i sax, eccetera. E suona anche le tastiere, tra l'altro lui è anche bravo. Poi c'è Roberto Solinas, che è il chitarrista, un rocchettaro pazzesco, pazzone ma un rocchettaro. Ma ci vuole rock, sempre. Sì, sì, infatti, ma lui a caso è un pazzo del blues, comunque è molto bravo. È stato un inserimento molto, molto azzeccato per noi. Poi c'è Fabio Chighina, il bassista, un altro funkman di quelli pazzeschi, anche lui innamorato di questo genere, certo, che è il più giovane, quindi è quello che ci ha dato un po'... La spinta. Una spinta, un calcio nel sedere. Ecco, esatto. La voglia di continuare a suonare, di farsi vedere. Sai, Ettore, stasera mentre ascoltavamo il disco tuo, non in live, l'altro, proprio l'ultimo, io e Maurizio ci siamo guardati e per un attimo abbiamo rivissuto un po' tutte le sonorità dei Jethro Tull e poi ancora tutti quei gruppi tipo Emerson, Lincoln, Palmer, quelle cose lì che facevano quel tipo. Siamo tornati indietro di tanti anni. Riscoprire questo disco vostro è stato veramente emozionante e molto, molto, molto piacevole. Insomma. Spero che non siano cose negative, dire che no, assolutamente no. E poi c'è anche Mimmo Di Martino che è un altro membro storico della band. Sì, Mimmo Di Martino collabora con noi, però dall'esterno. Dall'esterno. Sì, ha cantato un brano, il primo brano dell'album ha cantato, lo fa cantare a lui. E niente, con lui è una miniera di brani, di pezzi, è un compositore molto bravo, però dentro il gruppo no. Chiaramente. Non c'è, cioè. Allora, il disco si chiama Nel nome del vento, ha una bellissima copertina, che puoi citare, se puoi dire chi l'ha fatta la copertina. Sì, la copertina l'ha fatta... adesso non mi viene. Beh, una pittrice, insomma. Sì, dimmi il nome. Vediamo che leggo un momento. Comunque. Te lo dico dopo. In ogni caso, le fotografie sono di tua moglie, mi pare. Sì, l'interno. Cioè, l'interno. Sì, un'immagine di mia moglie, Giao Silvana, che l'ha dipinto lei. Benissimo. E cominciamo, anche, noi abbiamo scelto anche... la title track per iniziare. Nel nome del vento. Ce la vuoi spiegare musicalmente come è nata, come si è sviluppata? Un secondo. No, spiegami che brano hai detto. È la numero 2, mi pare. Ok. Che? La title track è Il nome del vento. Ah, Il nome del vento. È esattamente, me la vuoi spiegare un momento, poi la sentiamo. Allora, è un brano mio. Sì. dico mio. No, vabbè, a parte gli scherzi. Che avevo giusto composto circa 6-7 anni fa. Era nel cassetto allora, pronto. Sì, esatto. Ma era completamente diverso. Poi l'ho portato in sala di registrazione, l'hanno ascoltato i ragazzi di La Black Widow, mi hanno detto: ma cazzo, questo qui è un pezzo magnifico. E da lì è nato, cioè proprio l'abbiamo praticamente costruito in sala prove con i ragazzi. E lì ho inserito la voce di Mimmo proprio perché mi piaceva l'idea. E c'è anche, sono anche i cori di Sofia Baccini, che poi certo, magari ne parliamo più avanti, che ti dirò anche chi è. Benissimo, allora lo sentiamo assieme, la title track, Il nome del vento, I delirio. Va bene, dai. Blu Radio Sera. We'll be right back. Ok, abbiamo sentito quindi la title track. Ettore, ci sei? Sono qua. Benissimo, abbiamo sentito la title track e c'è la voce bellissima della Sofia Baccini dei Prisons. Esatto. Esattamente. Come mai hanno collaborato tanti musicisti? Per esempio c'è anche il leader, il vocalist dei Museo Rosenbach, altro gruppo progressive molto importante. Sì, sì, Stefano Lupo, tra l'altro. Esattamente. Lupo Galipi è un nostro amico proprio di infanzia, praticamente. Abbiamo avuto le prime esperienze musicali negli anni 60 assieme, quindi proprio... E poi, niente, sembrava una voce adatta al brano, anche lui con il Museo Rosenbach, adesso con un altro gruppo che si chiamano, ma guarda, mi sta venendo un nervoso perché mi non ti ricordo. Beh, un altro gruppo, un nuovo gruppo di Progressive. E abbiamo cioè, prima non sono riuscito a trovare il nome della pittrice, si chiama Anna Ferrari. Anna Ferrari, ecco, l'ho trovato adesso. E una cosa importante, sottolineare, fondamentale, c'è il paroliere storico della band. Ecco, appunto, volevo dirti prima, non ho capito bene, mi hai fatto una domanda, come dire, di spiegare il brano. Probabilmente intendevi dire l'album. Sì, l'album. Sì. Cioè l'album, che sì, in effetti non ti ho risposto, cioè non ti ho detto niente. L'album è un... Sì, i testi li ha fatti il nostro paroliere storico, che si chiama Mauro La Luce. Esattamente. Che ha fatto anche i testi di Lo Scemo Villaggio. Certo. Di Rinun 3. Che ho qua davanti, ecco, li ho proprio tutti davanti, i testi di Lo Scemo Villaggio, esatto, qua davanti. Se mi permetti, ti leggo quello che lui ha scritto come... come soggetto. Perfetto, vai vai. Va bene, allora, certo. Come recitazione sono scarsissimo, però ci provo. Dai. Un evento drammatico trasforma un uomo comune in un naufrago e lo mette a dura prova. Il protagonista deve fare i conti con sentimenti mai provati prima: solitudine, angoscia, contatto con una natura ostile, chiaramente. Certo. Inizia così un viaggio interiore che porterà il naufrago in un cammino di verità. Alla fine del suo percorso avrà capito quello che realmente conta e quali sono i valori che consentono all'uomo di conoscere profondamente se stesso, continuando però a vivere in modo consapevole la sua quotidianità. Sono stato bravo? Bravissimo, bravissimo. Sei stato bravissimo. Allora, i testi sono nati, cioè le musiche sono nati dai testi di La Luce oppure no? No, l'idea, l'input praticamente l'abbiamo dato noi. Ah, ho capito. Il naufrago. Certo. Poi lui l'ha sviluppato ascoltando i brani e le melodie, in base a quello ha messo su, no, è stato un merito suo in effetti, cioè come testi praticamente li ha fatti lui. Dobbiamo sottolineare una cosa, che l'inizio di questo pezzo, della title track, c'è la fine del famoso ultimo pezzo di Delirium Terzo, non è così? Sì, sì, esattamente, proprio dall'ultimo album che avete fatto, poi vi siete sciolti praticamente. Esatto. E c'è questo input, questo collegato, e poi comincia la title track. Un bel sax, un grande sax in questo pezzo. Baritono. Esatto, sax baritono, dobbiamo sottolineare queste robe. L'amore di Martin. Martin, bravissimo, musicista straordinario. Questo strumento, sì. Bellissimo. E una cosa, io e Agostino avevamo pensato prima, qual è stato il primo impatto dopo tanti anni davanti al pubblico con la band, Ettore? No, innanzitutto inaspettato, perché non pensavamo di trovare così un numeroso pubblico e entusiasta. E poi, cioè, in mezzo a quel pubblico che pensavamo di trovare noi pensavamo di trovare i nostalgici, sai, sessantenni, cinquantenni. come noi, praticamente. I giovani interessati alla cosa, quindi certo. Come a tutti i concerti che facciamo tuttora. Pochi, ma quel che pochi che facciamo abbiamo un notevole riscontro anche da parte di giovani, che questo è una cosa che mi esalta. È una cosa bellissima, secondo me, infatti. Che i giovani riescano ad entrare in un ambiente musicale un po' strano, un po' difficile, un po' complesso, un po' contorto, ma musicalmente molto valido, secondo me. Sì, sì, ma se andiamo a vedere, cioè, i giovani, anche se i gruppi anche di oggi, cioè, pescano sempre da quel genere. Certo, non certo. Non vuole dire che abbiamo fatto scuola, ma... Insomma, c'è un... Beh, in Italia sicuramente siete stati, sì, assieme con i New Trolls, avete fatto scuola, c'è poco da fare. Non c'è niente da dire. Ricordiamo Concerto Grosso, voi avete scritto Dolce Acqua, avete scritto Scemo il Villaggio, avete scritto il Delirium Terzo, cioè tutte piccole pere di un progressive molto interessante, molto importante. C'è stata la PFM, ci sono tanti altri gruppi, ma il progressive è una cosa fondamentale. È partito da Genova, possiamo dirlo questo? No, non è partito. È partito anche da Genova. Sì, dai. Circa 2000, voi e il New Trolls, insomma. Sì, New Trolls. Anche Mattia Bazzar, perché no? Certamente. Gruppi di genovesi ce ne sono tantissimi. Il fatto dei festival progressive di allora, che poi si chiamavano festival pop, esatto. Tantissimi. E a Genova. Quelle Villa Panfili, te la ricordi? Esatto. Villa Panfili. Noi abbiamo fatto il festival di Palermo, che era forse è stato il più grande di tutti come affluenza, che sono arrivate a 50.000 persone. Quindi addirittura con ospiti come Emerson, come Jimmy Smith, Manfred Mann, cioè personaggi della Madonna. Straordinari. Ma era difficile suonare a quel tempo, Ettore? No, era più facile di adesso. Era più facile di adesso. Anche perché gli spazi ce n'erano tantissimi. Adesso purtroppo sono limitati. Perché non so perché. Perché io penso che il pubblico andrebbe a sentire concerti, ma non so, o hanno paura di... Non te lo so spiegare la cosa, perché gli spazi in effetti potrebbero esserci come ci sono stati a quell'epoca. Forse allora c'erano meno problemi di burocratici, di sicurezza, eccetera, quindi la gente azzardava di più. Invece oggi magari è un po' più ora in quel senso. Certo. Penso che sia quello il motivo. Questo è verissimo. Benissimo, allora io ho scelto la traccia numero 3. È strumentale, ma è importante, parlando a proposito di gruppi storici, Ettore. Adesso la spieghi te il proposito dei gruppi storici. Si parla dei Van de Graaff Generators. Un input, come si chiama. Bellissimo, però la musica è totalmente vostra, chiaro. Non è totalmente nostra. Questo riferimento, ma la musica è vostra. Sì, il tema. Esattamente, questo voglio dire. Il tema, quindi è loro. L'introduzione però è mia, cioè sono pezzi inseriti, che sono tutti nostri, completamente diversi. Che difficoltà, dimmi Ettore, che hai avuto difficoltà a costruire... Hai avuto difficoltà a costruire un pezzo? Ti sei sentito con gli altri? Come è nato? No, difficoltà niente, anzi per me io mi trovo benissimo a costruire. Basta che qualcuno mi dica, che bello, allora io mi esalto, non io soltanto, anche gli altri uguali, no? Cioè Martin, anche Pino ha le sue idee, come melodie, lui ne tira fuori a bizzeffe, il bassista le sue idee, ognuno di noi mette qualcosa, in effetti, non è che... Non vuol dire che lo faccio tutto io, prima. Certo. Comunque, a proposito di Van de Graaff, esatto. Abbiamo avuto l'esperienza l'anno scorso, siamo stati a suonare a vicino a Napoli, a Fragola, sì. A un festival, e è salito sul palco con noi David Jackson. Ah, immenso. E non ha suonato Tame One. È venuto a suonare Dolce Acqua con noi. Ah, bello, bellissimo. Guarda, si è portato tutta la serie di flautini che aveva lui, una scorta di flauti, sax, eccetera, che è uno spettacolo da vedere. È salito sul palco con questa borsettina di flautini e improvvisava tirando fuori un flautino, poi un altro. È stata una cosa, guarda, stupenda. Ci credo. È decisamente un feeling incredibile. Li siete trovati immediatamente, c'è poco da fare. Sì, beh. Benissimo, allora sentiamo questo pezzo strumentale molto bello che si intitola Verso il naufragio. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Sono passate da 12 minuti, le 21.30, 21.42, siete sempre sintonizzati con Blu Radio Veneto e con Agostino Solaore e con Maurizio Calzavara in studio a salutare, a parlare, a chiacchierare di più e di più ancora con un componente dei Delirium. Si chiama Ettore Vigo e ci sta facendo compagnia dalle ore 21. Ettore, ci sei? Ci sono. Eccoci qua. Benissimo, Ettore. Perché ho scelto questo pezzo? Per due motivi. Primo, perché c'è un grande lavoro che tu fai alle tastiere. E un secondo motivo, perché l'incipit di Team One era la sigla finale, molti anni fa, della nostra emittente. Addirittura. Esattamente. Un famoso, mitico 45 giri. Beh, forse gli ascoltatori lo sanno che l'edizione, solo nell'edizione americana esiste Team One, Impaunata, edizione americana. L'edizione europea non esiste. Non esiste. Esattamente, tu sai tutto, quindi l'ho detto per i nostri ascoltatori. Qualche episodio strano, Ettore, nelle tournée mondiali che avete fatto? Ti ricordi qualche aneddoto, qualcosa di particolare? Ti posso dire l'ultima esperienza che abbiamo avuto? Certamente, che è stata quella, certamente. Quella in Lituania? Sì, benissimo. Che era un festival prog che forse conoscerai, che si chiama Baltic Prog Fest. Sì. Che era a Vilnius. Due anni fa l'abbiamo fatto e siamo arrivati in aeroporto tranquillamente, cioè pensando di trovare il solito festival in città, classico, piazzale eccetera. Invece no, abbiamo fatto praticamente 25 chilometri di strada in mezzo ai boschi. Ai boschi. Siamo entrati in una foresta per 8 chilometri in mezzo agli alberi. Siamo arrivati in un campo, era, guarda, sono rimasto col cuore in gola perché dalla bellezza, perché era praticamente un campeggio tipo villaggio indiano, diciamo, certo. No? Con tutte le capanne, con un palco tutto costruito in legno, in travi una sopra l'altra, ma una cosa, guarda, bellissima da vedere. E un pubblico che tra l'altro ci ha emozionato da matti, perché figurati, non c'è aspettato, no, beh, noi eravamo il gruppo di punta, penso un gruppo italiano che va a fare gruppo di punta a un festival europeo, no, europeo, sì, europeo, che c'erano gruppi da Inghilterra, gruppi da Finlandia, gruppi da, quindi è stato per noi una cosa grandissima. E niente, boh, è stato quello l'importante. È stata una grandissima esperienza, positiva, bene, una grande sensazione, un grande patto. Cosa avete suonato? I pezzi dell'album nuovo? Abbiamo fatto sì due brani dell'album nuovo, abbiamo fatto Team One naturalmente, perché certo. L'ho conosciuto in quelle zone. E poi anche lì, naturalmente, il pezzo nostro famoso, qual era? Israele. Anche là, lo conoscevano anche là. Ormai è un vostro marchio quello. Siete, non potete. No, ormai voi siete Delirium, no. Israele. Esatto, c'è niente da fare. Una cosa, ho visto che siete stati anche in Messico. Il Messico è una seconda patria, musicalmente parlando, è molto seguito. Vi seguono molto i fan messicani. In Messico stiamo aspettando, adesso la risposta per andarci a ottobre, perché avremmo dovuto andare a maggio, ma c'è stato il problema del terremoto in Cile, e l'organizzatore era cileno, difatti è stato un mese senza fare sentire, ho detto qui senz'altro sono rimasto sotto le macerie, invece no, poi si fa sentire, ma ha avuto dei problemi non indifferenti per organizzare tutto quanto. Ma avete un buon pubblico di seguaci, sì, come si dice, sì, di stimatori? Decisamente. Quindi no, Messico, abbiamo parlato del Giappone, in altri stati dove... In Giappone non siamo ancora stati purtroppo, ma so che siamo richiesti lì, abbiamo avuto anche, ultimamente c'è stato un gruppo genovese, che adesso non mi viene mai in mente il nome, guarda, quando si superano i 60 anni è dura. Quindi c'è un gruppo genovese che... Un gruppo genovese che è andato lì ultimamente a fare un concerto a Tokyo e un altro in Corea. E so che noi siamo, cioè ci vorrebbero. Quindi siete molto seguiti, chiaramente. Siete molto seguiti, è una cosa molto positiva. Benissimo. Quindi ci puoi parlare, hai qualche concerto adesso nel giro qui vicino? Sì, il primo concerto che abbiamo adesso è il 10 luglio a Ceriale, qui è una notte bianca che ci hanno voluto a tutti i costi, c'è un sacco di gente che amanti del progress sono anche amici su Facebook che ci hanno voluto a tutti i costi e andiamo lì. Poi un altro importante, se vuoi saperlo, è l'11 settembre assieme a Neutros. Però che prima ce ne sono altri, però non le dico perché sono piazze, ecco. Mm-hmm. Perché noi abbiamo due repertori, siamo costretti anche perché se no non, certo, fare solamente i festival. Ne parlavamo anche sabato, ricordi? Giusto. Sì, due repertori, come sono due repertori? Due repertori, il repertorio della piazza, che chiaramente comporta un buon 50% di cover. Certo. Però, cioè, fatte con un certo senso logico, cioè, praticamente raccontiamo una storia del rock dagli anni 60 nostri fino a fine anni 60, fine anni 70, passando dai Van der Graaf, facendo il Jethro Tull, Joe Cocker, vari altri. Cioè. Mm-hmm. Cosa fate dei Jethro Tull, così per curiosità mia? Facciamo Burré, che c'è l'accenno che facciamo lì. Certo, sì. È quello che facciamo anche nel disco. Ah, ok. Mm-hmm. E poi la seconda parte del concerto, l'altra faccia dei Delirium? No, è intervallata, cioè ogni brano che facciamo, raccontiamo della storia del rock, diciamo così, di vari personaggi, entriamo con un brano nostro, sempre del periodo, quindi certo, praticamente è la nostra storia intercalata con quella di altri personaggi. Di altri personaggi, chiaramente. Compreso con uno schermo che proiettiamo immagini, filmati, eccetera. Quindi è una cosa carina. No? Bello, bello, interessante. Bello. Un bel progetto, insomma, praticamente. Sì, sì, bello. Decisamente molto interessante. Ok, adesso scegliamo il pezzo che tu mi hai suggerito e sono stato molto contento di metterlo, di programmarlo ai nostri ascoltatori, perché è un grande pezzo, molto bello, molto intimista, molto interessante. Ci vuoi spiegare come è nato, come si è sviluppato, o lo spieghiamo dopo, al tuo piacimento? Ma anche quello è sempre un brano mio che avevo nel famoso cassetto. Avevi tanti brani, già ne hai ancora nel cassetto? Sì, ne ho ancora tanti, anzi stiamo lavorando di nuovo per un nuovo progetto che probabilmente uscirà nei primi mesi dell'anno prossimo. Intanto, per dirti che a settembre uscirà il DVD di un concerto a Genova che abbiamo fatto, che è molto bello, con un po' la nostra storia, e ci saranno dentro 3-4 brani del nuovo album e più tutti i brani storici nostri. E questo brano, che è Luci Lontane, sì, è nato completamente diverso da come lo senti adesso, perché in effetti l'idea di fare la voce soltanto col pianoforte così è nata un po' dal cantante, perché non lo facciamo così eccetera. Poi io, conoscendo queste ragazze meravigliose che sono quattro archi che sentirai, e così le ho coinvolte e ho fatto quel lavoro, insomma. Adesso non so cosa dirti di altro. No, è un bellissimo pezzo, adesso lo sentiamo. Ci tengo perché ce l'avevo già lì da un po' di tempo e mi piaceva in particolar modo. Sempre col paroliere, la luce, sempre lui il paroliere. Sì, la parola la fate sempre lui. Sempre lui, perfetto, ok. Blu Radio Sera. Fuori stagione. di più che a un re. Crest torna su Blu Radio anche nel 2010. In and Out, il tuo Crest in onda in collaborazione con Telechiara. Un viaggio appassionante dentro gli oratori delle vostre parrocchie. Per partecipare, manda una mail a info@telechiara.it entro il 10 luglio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci di nuovo qui. Ettore, ci sei? Ci sono. Non capi, no? Sei tutto nostro stasera. Ettore, tu hai calcato i palchi assieme ai Colosseum, agli Emerson, Lake and Palmer e anche a Julie Driscoll. Julie Driscoll? E Brian Hogan, praticamente. No, non solo Julie Driscoll, non c'era Brian Hogan. No, era con Pippet. Grandissima musicista, Julie Driscoll. Sì, tra l'altro in quel periodo ha fatto praticamente, era il Festival Pop di Palermo, se parliamo sempre di quello. Si è presentata sul palco con questa formazione di suo marito, che facevano una specie di free jazz che lì a Palermo non l'hanno apprezzata. Ah, non hanno capito. È stato un discreto lancio di cosa? Di pomodori? No, di fischi? Di giole di terra addirittura. Ah, però. Mi ricordo in particolare che una giola ha preso il contrabbasso in pieno e ha rimbombato per tutta la piazza. e poi hanno fatto tre pezzi, se non sbaglio, poi hanno smesso, perché in effetti non sono stati capiti. E per me ha azzardato lei, cioè, ho capito, ha sbagliato a portare, vabbè, comunque insomma. E cosa ci dici di Colossio, dei Midici Colossio? Colossio noi l'abbiamo fatti come spalla, diciamo così, non solo noi ma con altri gruppi a Genova, al Palazzo dello Sport, e in più anche giù sempre a Fece della Pop. Ho capito. E Colossio sono stati grandi, né? Poi c'era addirittura il batteri Fanosa che era innamorato pazzo di bell'idea del batterista, sì, sì. Heisman. John Heisman, esattamente, era incredibile. Se non mi ricordo i nomi, guarda, io sì, beh, un batterista dei Colossi, un famoso batterista dei Colossi. Un'altra cosa che ho letto da qualche parte, tu hai suonato coi Police, ma che erano sconosciuti o quasi agli esordi. Mi ha fatto sì un periodo in Germania, con i Kimmel Cadillacs, però, no? Ah, bello. Parlaci un momento dell'esperienza con i Kimmel Cadillacs. Ma i Kimmel Cadillacs è stata un'esperienza stupenda, per il fatto che erano cinque pazzi, perché erano amanti della musica, del rock and roll, della birra e del vino bianco. Anche del vino bianco? sì, specialmente del vino bianco. Quindi ogni volta che salivo sul palco era sempre un'avventura, che non sa come... Non sapevo come andava a finire. Infatti erano botte tutte le sere, cioè proprio come spettacolo chiaramente, ma anche invogliati da questo fatto che non sapevano cosa stavano facendo. Spaccavano chitarre, rovesciavano batterie, addirittura rovesciavano anche il mio pianoforte, che mi incazzavo tutte le volte. Ma è stata un'esperienza in ogni caso positiva, dai. No, bello, no, adesso sto scherzando naturalmente. Sì, certo. È stata certo. Esaltante, anche perché bombe sul palco, addirittura ci hanno tagliato, siamo andati a fare il Festival Bar all'Arena di Verona, la nostra esibizione è stata tagliata perché abbiamo messo le bombe sul palco a insaputa di quelli che ci riprendevano praticamente, no? Quindi è successo un disastro perché i bagliori delle... hanno rovinato praticamente la ripresa. Le riprese praticamente. Quindi stanno tagliato fuori. È una cosa che non si sapeva. Sono tutte cose che non si sanno. Sì, no, non si sanno, no. Perché, insomma. Beh, certamente sì, però sono tutti aneddoti, tra virgolette, questo qua, però tutte cose che fanno parte di un musicista come te, che hai suonato con tanta gente, che hai calcato tanti palcoscenici. E abbiamo fatto anche Sanremo con le chimiche. Dai, parlaci di Sanremo. Nel 79 abbiamo fatto un brano di Piero Cassano, di Maria Bazar, si chiamava C'era un'atmosfera, siamo arrivati sesto o settimo mi pare, e no, è stata anche quella una bellissima esperienza, perché un gruppo, tra l'altro l'abbiamo fatto un po' a sé, perché i classici, nonostante fosse il 79, già cominciavano a uscire gruppi un po' particolari, ma noi eravamo un po' l'immagine pop di quel festival, diciamo. Quindi è stata una bella esperienza, 79, quindi Sanremo di quell'anno. E ritornando sempre al discorso con cui hai suonato, che hai calcato, non hai parlato, ci abbiamo solo citato per gli Emerson e i Campalme, che ricordi hai? No, Emerson, in particolare Emerson. Perché in particolare Emerson. Sì, perché c'era lui, anche se mi parlo sempre del festival proprio di Palermo. Certo. È lì che abbiamo conosciuto, 2 anni di fila addirittura, abbiamo fatto il 71 e 72 mi pare, o 71 e 72, che quell'anno tra il 72 è stato un po' un disastro. Perché è stato un disastro? È un disastro perché per problemi logistici, non so, l'organizzatore aveva dei problemi. Mi pare abbiamo fatto una serata solo e poi le sono saltate. Ho capito. Bene, sono dei ricordi, però. Comunque sono cose che poi non sono più successe. Fatte lì, che erano spettacolari, se ne va a dire l'affluenza di pubblico, l'entusiasmo. Cioè, e poi il periodo forse era giusto. Se qualcuno dice erano altri tempi, ovvero, cosa dici? Sì, è un modo di dire, sì, altri tempi. È per modo di dire, esattamente. Andiamo avanti per presentare questo album che è molto bello. Io ho scelto un'altra traccia che lo trovo molto molto interessante. Io e Agostino abbiamo deciso. A me piace molto Ettore, l'ho ascoltata prima, ti dico subito. Decisamente molto interessante. Ciao, ciao Ettore. Si chiama Cuore Sacro. Cosa ne pensi di questo Cuore pezzo? Cuore Sacro, questo qui è un pezzo di Martin. Anche il precedente era un pezzo di Martin assieme a te, però, mi pare. Sì, no, anche praticamente abbiamo lavorato tutti assieme. Ma questo in particolare è proprio suo, proprio come idea. di partenza, e poi l'arrangiamento sono stati opera sua e tutto quanto. E in più c'è una cosa carina, che è l'introduzione, sì, e la parte finale di pianoforte è stata eseguita dalla Sofia Pacini, quindi non sono io che suono, sì, in quella parte, poi dopo l'introduzione sono io, che l'abbiamo praticamente presa alla sprovvista, no? Cioè lei l'ha fatta giocare un po' col pianoforte mentre stava registrando le voci, e l'abbiamo detto, beh, suona qualcosa in là, no? Così, in la minore. Lei si è messa lì, si è divertita, e noi mentre eravamo di là, il studio Maia, tra l'altro, che devo dire, ringraziare anche Verdiano, diciamo, registra tutto quello che sta facendo, e poi a sua insaputa abbiamo inserito il pezzo. Quando abbiamo detto, è stata entusiasta. Abbiamo chiesto prima, chiaramente, di farlo uscire, che insomma chiedesse permesso. Certo, chiaro. È molto emozionante anche come pezzo, sinceramente. Io l'ho trovato. Sì, è carino, infatti. A me veramente ha colpito moltissimo. Si intitola Cuore Sacro. Giusto? Poi ha indovinato anche come si può dire. L'armonia? L'armonia, ma proprio anche il sentimento che ci ha messo. Sembrava proprio fatto apposta. Cioè, quindi l'abbiamo. Molto pathos, insomma. Esatto, molto pathos. Ok. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Sacro che sconfiggi il temporale per poi posarti lieve su noi come una linea blu. Cuore sacro che ti fai bastare il sale per non smarrire il senso per poi capire il tempo qui. sacro che sconfiggi il temporale per poi posarti lieve su noi come una linea blu. Cuore sacro che ti fai bastare il sale per non smarrire il senso per poi capire il tempo qui, proprio qui. Lumattino. Lumattino. Colora di blu il tuo mattino. Dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12 insieme a me, Francesco Galante, scopriremo le cose più interessanti della nostra regione e staremo insieme con tanta bella musica. Lumattino. Ti aspetto su Blu Radio Veneto. Lumattino. Colora di blu il tuo mattino. Dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12 insieme a me, Francesco Galante, scopriremo le cose più interessanti della nostra regione e staremo insieme con tanta bella musica. Lumattino. Ti aspetto su Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Rieccoci in diretta qui da Blu Radio Veneto con Agostino Suolore e Maurizio Calzavara a tenervi compagnia ancora per circa 20 minuti con un grande, sinceramente è un grande amico per me, ma è un grandissimo personaggio della musica italiana, è un componente di Delirium, si chiama Ettore Vigo. Ci sei? Ci sono sempre, sì, non sono tanto grande, sì. Sono 1,73 m. Per me sei simpaticissimo, oltretutto sei un caro amico, Grazie, ci siamo conosciuti molto in questi giorni e sono veramente contento di conoscerti. Naturalmente anch'io. Tu hai scritto, hai detto in un'intervista recentemente, noi siamo un gruppo di vecchietti che però sanno divertirsi e cercano di divertire gli altri. Certo, è quello che cerchiamo di fare, anche perché andare a fare i pivelli in giro non è più caso. Esattamente. Anche se qualcuno ce l'ha proposto, naturalmente. Sì. Perché dovete fare un pezzo commerciale, dovete essere belli, leccati, eccetera. Guarda che noi non possiamo più andare a fare adesso ho detto una parola non troppo simpatica, non è radiofonica, quindi non la dico, però non possiamo più essere così. E allora noi diamo quello che diamo, noi diamo la nostra musica, cerchiamo di divertirci sul palco, la gente si rende conto che ci stiamo divertendo e si divertono anche loro. Basta, non chiedeteci cose fuori dal mondo. E bisogna sottolineare una cosa, Ettore, che avete trovato un'etichetta molto interessante, molto brava, che vi ha dato la strada, vi ha dato la possibilità di incidere un album e di continuare un discorso vostro. Sì, ma c'è anche proprio spronati. Esattamente. Perché parliamo di questa etichetta allora un momento. Sì, la Black Widow, che sono grandi, a parte il fatto intenditori, seguono moltissimo il progressive, ma fanno anche il metal, cioè hanno varie produzioni di altri generi anche, però in modo particolare sono amanti del progressive. E oltretutto, non so se conosci il Bacio della Medusa. Sì. Il gruppo che dicevo prima, che faceva parte Galifi, è un gruppo che adesso ha registrato un disco con loro che si chiama Il Tempio delle Clessidre. Ah, ho capito. Che sono bravissimi. E appunto ci sono vari gruppi che fanno base a quell'etichetta, anche perché sono conosciuti in tutto il mondo sul serio, proprio hanno una distribuzione mondiale. Quindi noi siamo stati felicissimi di farlo, di partecipare a questa serie di amici che sono Massimo, Pino, Alberto. Esattamente. Sono i tre dell'Ave Maria, Gesù li chiama. I tre Ave Maria, sì. A proposito di nomi, ti rubo 30 secondi, Ettore, perché ci sono delle persone che mi hanno scritto tramite Facebook, che stanno ascoltando, ti fanno i complimenti per la musica, per quello che fai, e ti mandano i loro saluti. Sono tutte donne, guarda caso. Allora, si chiama la Silvia dalla provincia di Venezia, Marghera, poi c'è la Miria dalla provincia di Mantova, c'è la Ombretta dalla provincia di Firenze e c'è l'Angela dalla provincia di Torino, anzi Torino città mi sembra, se non sia. Sì, sì, Torino città. E che ti salutano caramente e ti porgono i loro complimenti, insomma. Grazie, ricambio. C'era molta unione fra i gruppi degli anni di quell'età. Difatti tu hai sempre in un'altra intervista hai detto salutiamo con molto piacere i cari amici Osana del grande Lino Vairetti. Sì, a proposito, quella sera che abbiamo fatto la serata giù con David Jackson lì dei Van de Graaff. Sì, dei Van de Graaff, che lui praticamente fa parte degli Osana in questo periodo, perché fa concerti con loro, certo. Già da un po' di tempo. Lui, Lino, è bravissimo, tra l'altro l'ho sentito che non molto tempo fa a Savona, a un concerto che c'era anche la Baccini, tra l'altro, come ospite, e anche il tastierista Gianni Leone del Baito di Bronzo. Certo. Che, se ti ricordi. Sì, sì, mi ricordo, come no. Ecco, sono spettacolari, cioè molto, molto napoletanizzati, diciamo, sì. Così, no? Però sono strepitosi. Dobbiamo ricordare che sono stati i primi a vestire certe maniere, a colorare il viso, la faccia. Il viso colorato ancora prima dei Kiss, andiamo a vedere. Erano bravissimi. Molto bravi, sì. L'uomo era un pezzo favoloso, a mio parere. Sì, tra l'altro in quel periodo eravamo tutti e due nella stessa etichetta discografica. La Fonicetra. Che era la Fonicetra. Esattamente. E la Rai? E la Rai? Rai Trade? La Rai dov'è? Rai Trade sull'ultimo? Ah no, Rai Trade è una cosa. Rai Trade è una... Non avevi parlato stasera. Sono, sì, come edizioni abbiamo le Rai Trade. Quindi un'ottima, un'etichetta importante che vi ha dato una mano, che vi ha, come tu giustamente, vi ha spronato a proseguire un discorso che è appena iniziato, secondo me. Sì, ma anche loro, cioè... una di quelle richieste che ti dicevo prima, indecenti, mi è arrivata da loro anche, quello mi ha dato un po' fastidio, perché insomma non puoi dire una cosa del genere, apprezzare il nostro disco che abbiamo fatto ultimamente e poi faccio una richiesta del genere, come dire, bene, queste cagate qui, scusa la parola, mettetela da parte e facciamo una cosa commerciale, ma dai, insomma, non si può fare un altro. Non si potrà mai fare. No, Israele, quella e basta, chiusa, esatto, il discorso. Quindi, adesso i Delirium sono i Delirium di adesso, quindi... Cioè, poi se andiamo a vedere qui i brani, sì. Non saranno commercialissimi, però pezzi orecabili ci sono. Certamente. Sono ascoltabili, quindi non vedo nessuna... Vabbè, comunque, sono discorsi... Un discorso che sono validi, cioè bisogna portare avanti. Voi avete una strada da percorrere, avete continuato e continuerete sicuramente, visto che hai già dei pezzi nel cassetto pronti per essere incisi con un nuovo disco. Certamente. Anzi, ne abbiamo già due che sono due pezzi in inglese che sono strepitosi per me, che prima o poi li faremo uscire, poi sentirai che roba. Bene. Ce li farai sentire. Certo. Ricordiamo il tuo sito, se ti ricordi. Sì, MySpace. Il nostro sito è idelirium.it. Sì. Poi c'è il MySpace, che è quello che lo curo personalmente, che è myspace.com, eccetera, Delirium Italy. Ok. Il disco si può trovare in qualsiasi negozio di dischi? O puoi richiedere ai concerti praticamente? Ai concerti anche, sì. Poi comunque sì, via internet si trova facilmente. E poi se vai alla Fnac o se vai da Ricordi, li trovi senz'altro. Certo, si chiama Il Nome del Vento, lo ripetiamo. La produzione è vostra totalmente? Sì. Totalmente vostra. Sì, Black Widow. Ascolta una cosa. Dimmi. Se non ti dispiace, vorrei ringraziare. Certamente. Le quattro ragazze che hanno fatto i viaggi con noi, che sono. Ci tengono e ci tengo anch'io. Che una che si chiama Chiara Giacobbe, che è la violinista, Diana Tizzani, l'altra violinista, Simona Merlano, che è la violista, e Daniele Caschetto, che vorrei aprire una piccola parentesi, se mi permetti. Daniele Caschetto è anche una bassista che suona in vari gruppi rock pazzeschi e in più suona anche con un gruppo che suona mia figlia. Ah, bene. E devo fare la pubblicità. Certo, è giusto. Si chiamano le Minigonne. Sono quattro ragazze stupende che fanno beat anni 60, solamente in italiano. Che bello. E molto prossimamente... Ma pezzi loro o sono cover? No, fanno tutte cover, ah, okay, adesso stanno preparando un album prodotto da noi, di brani nuovi. Daniela Elmi Caschetto, allora. Suonerà a Padova, quindi vi comunicherò quando saranno. Certo. Certamente. Sono bravi veramente. E suona il violoncello la Daniela, vero? Violoncello, sì. Bellissimo, uno strumento favoloso il violoncello, ha un suono particolarissimo. Raccontaci di questa parte. Lei ha fatto parte anche di un gruppo mio, che di Nove Elementi, che facciamo De André già da quasi 10 anni. Quindi è un gruppo a parte questo qua, praticamente. Sì, sì, un gruppo mio che così facciamo proprio il tributo. E lei era violoncellista in questo gruppo fino a 4 anni fa, poi si è staccata perché... Però prosegue il discorso, insomma, con voi ha partecipato all'incisione dell'album. Partecipa tuttora. C'è qualche altro musicista che non abbiamo citato oltre a queste 4 ragazze che ti ricordi? Qui nell'album no. Nell'album abbiamo citato tutti, mi pare. Non c'è nessun altro. C'è solamente il figlio di Vardiano che fa il pianto iniziale di dopo il vento. E poi c'è anche un videoclip, mi pare. Ah, videoclip, ah, giusto, ecco. Sto leggendo nel libretto, Ettore, è solo quello. Sì, sto leggendo nel libretto. Beh, se non me lo ricordo, io non mi viene in mente. Videoclip di L'Acquario delle Stelle, un L'Acquario pezzo. L'Acquario delle Stelle, che è stato realizzato dall'Università di Verona. Esatto, sì. Esatto, tra l'altro Ezio Cuoghi era il regista. Sì. Ce l'hanno fatto fare 3 anni fa, mi pare, prima ancora che uscisse Vago, l'abbiamo inserito. È una cosa carina, non so se l'hai visto. No, non ho ancora visto, però lo vedrò sicuramente. È un cartone animato, praticamente in 3D, con qualche immagine live, dal vivo, del nostro cantante iniziale, che è nudo in una piscina da bambini, non nudo. Sì, sì, capito. Ho capito, sì. Beh, poi guardalo e mi dirai se è piacevole o no. Certamente lo vedremo. Un'altra cosa volevo chiederti, sì, se vuoi ripetere la prima data che farai con la band adesso. 10 luglio a Ceriale, provincia di Savona. E poi avrai il grande concerto assieme ai New Trolls, mi pare. Sì, ci dovrebbe essere, vabbè, ma voglio non lo dico perché per scaramanzia. Venite da queste parti anche? Sì, penso di sì. Bene. Però quello ce lo devono confermare, perché appunto per non dire delle date così a caso. Certo. Sì, sì, già, quindi verrete quando sarà. Sai che se suonate in qualche posto poi venite qui. Certamente, cioè, ecco, quello che ci darei molto anche noi fare un bel live lì magari. Sì, un bel acustico. Per quattro, bel acustico. Quindi il vostro repertorio è immenso, qui non ci sono problemi di abbiamo 2 ore, ma 2 ore potete fare tutto quello che volete, non ci sono problemi. Beh, adesso non esageriamo. Beh, insomma, in due ore si può fare molte cose. Beh. Si può ma 2 ore sono carissime, finché facciamo 10 minuti, quelle 5.000 euro. Sì, ma 2 ore, lo spettacolo dura 2 ore, poi fate quello che volete. Ah, che lo spettacolo, cioè la trasmissione dura 2 ore, questo. Siamo quasi in chiusura, Agostino. Sì, ma però prima di chiudere, noi abbiamo deciso che tu devi scegliere un pezzo dall'album che non abbiamo scelto per adesso. A tuo piacimento. Allora, fammi pensare, perché ci sono vari pezzi che mi piacciono. Che mi piacciono, sì. La bonus track. Dimmi te, a tuo piacimento. Ma guarda, facciamo la bonus track, anche sì, perché l'Aurora Boreale? Sì, esatto. Che è il pezzo finale. Come mai è stata messa come bonus track questa, Ettore? Ma perché diciamo che è colpa della Black Widow, perché in partenza l'abbiamo proposta nell'album. E loro hanno detto, ma questo brano qua non va bene, secondo me. Bene come... Noi ce lo vedevamo benissimo dentro, però in effetti poi un brano suonato solo... E niente, ci è andato il contentino. Avete fatto un compromesso praticamente. Esatto. E avete messo il contentino e va come bonus track. Quindi ripetiamo l'album dei Delirium, nuovo il nome del vento, l'etichetta è la Black Widow di Genova, praticamente, esatto. Un'etichetta italiana, anche se è una distribuzione mondiale poi. E aspettiamo i Delirium da queste parti, che sicuramente arriveranno da noi. E io non so come ringraziare Andy e Ettore. Anche a... sono io che ringrazio voi, che siete gentilissimi. Scusate un po' delle mie dimenticanze. Ma no, dai, no. Non ci sono state dimenticanze, sono state solo delle... Amnesie. Non sono mica dimenticanze. È brutto a dire amnesie. Non c'è stato niente, c'è stato un bel percorso assieme. Abbiamo parlato di questo nuovo album e abbiamo parlato di cose vecchie che sono sempre positive in ogni caso. Sì, che se andiamo a vedere, da raccontare ce ne sarebbero tanti. Ma avremo qualche altra occasione, Ettore. Quando verremo su. Certamente, quindi avrai il microfono a tua disposizione quanto vorrai. Okay. Ettore, io ti ringrazio per la tua disponibilità anche grazie in questi giorni che ci siamo sentiti un sacco di volte. Okay. E noi ci sentiamo presto. D'accordo. Va bene, quando vuoi ci siamo. Buona serata. Capiti per Padova, sai che ci siamo. Buona serata, Ettore. Allora sentiamo la title track, la bonus track, pardon, dell'album In nome del vento. Grazie, ciao. Grazie, ciao Ettore. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. We'll be right back. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Bene, sono arrivate quasi le 22.30, dove è il momento di lasciare lo spazio a un mio caro amico, lasciami che me lo dica, il mio più grande caro amico che ho qui, e si chiama Alberto Prisco, e con la sua classifica e la sua musica rock. Sì, dopo lasciamo lo spazio a Alberto Prisco con Rock Wave. Grazie Agostino di questa cavalcata assieme a Ettore dei Delirium, Ettore Vigo dei Delirium. Ci sentiamo nelle prossime puntate, e noi ci sentiremo anche chiaramente mercoledì prossimo per Rock Wave. Abbiamo i 12 corde. Io beh, sono tu farai il fotografo. Abbiamo i 12 corde. No, io non ci sono al mare. Io. Ah, sei al mare? Buone vacanze. 12 corde è un gruppo di Reggio Emilia abbastanza folk, ma non prettamente folk, molto interessante. E mercoledì avremo un'intervista telefonica con assieme a Sergio Bortolami. Ma dovete sempre seguire il Facebook di Alberto. Quindi nel Facebook di Alberto c'è scritto tutto quanto. Grazie, e fra pochi minuti sempre non allontanatevi dall'apparecchio, perché c'è Alberto Prisco. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. L'onda del rock. I can see.